Amabile Visintainer, la nostra futura Santa Paolina, nasce a Vigolo Vattaro in provincia di Trento nel 1865, quando il Trentino apparteneva ancora all'impero austro-ungarico. Era la seconda genita di una famiglia numerosa e di modeste condizioni. Il papà, scalpellino e muratore, era costretto a lunghi periodi di assenza in cerca di lavoro. La mamma invece coltivava un piccolo campo e lavorava di cucito. La piccola Amabile doveva accudire i fratellini più piccoli, che nascevano in rapida successione, badare alla vecchia nonna invalida e lavorare anche in una filanda addetta alla cernita dei bozzoli. Possiamo dire, cari amici, niente di speciale visti i tempi, ma lo speciale è che questa bambina aveva allora soltanto 8 anni e doveva stare per ore davanti ai catini bollenti della filanda. Tutti dicevano che la bambina era davvero amabile, soprattutto quando si privava spesso della sua povera colazione, perché non riusciva a mangiare vedendo il visino afflitto di tante altre fanciulline, ancora più piccole di lei, che non avevano potuto portarsi nulla da casa perché non avevano nulla da mangiare. Così lei dimagriva a vista d'occhio, anche se la sua anima era nutrita da quello che la mamma le raccontava sulla vita dei santi. Era una santa abitudine di tutti i giorni. Ancor più dura divenne la vita quando si ammalarono i gelsi che davano la materia prima per le 5 filande del paese. Emigrare allora divenne quasi una necessità. E proprio in quegli anni il Sud America aveva dato il via a una massiccia propaganda per favorire l'immigrazione. Erano state create apposite compagnie di reclutamento che operavano in tutta Europa e che promettevano tanta terra quanta se ne poteva coltivare. E qui dalla Lombardia, dal Veneto e dal Tirolo partirono in quegli anni per il Brasile circa 14.000 contadini. Da Vigolo Vattaro, dove era nata la nostra amabile, la nostra futura santa, ne partirono in una sola volta 135 e tra questi c'era tutto il nucleo familiare dei Visintainer. Amabile non aveva ancora 10 anni e in treno gli emigranti viaggiarono in quel periodo carichi di povere masserizie e anche, dobbiamo dire, di tanta nostalgia per il loro paese. Viaggiarono per molti giorni verso il porto francese di Le Havre, dove dovettero attendere un mese, con disagi e stenti per noi inimmaginabili, prima di imbarcarsi su una nave che portava il nome di Saint-Martin. E pensate, la casualità è che proprio lì vicino, cari amici, già viveva una bimba di 2 anni di nome Teresa Martin, che la nostra sarà poi la famosa Santa Teresina del Bambin Gesù. Intanto Amabile viaggiava, la nostra piccola, conservando nel cuore le parole profetiche, possiamo dire, che la vecchia nonna le aveva rivolto prima di morire, quando già in famiglia si parlava di emigrare, di andare a lavorare, di trovare lavoro in altre terre. La nonna disse a questa sua nipotina: «Come sei stata generosa e dolce con me, così lo sarai con tanti altri, là nel paese dove andrai, e molti ti ricorderanno come me, con riconoscenza e amore». Quando i trentini giunsero al porto di Itajaí, nello stato di Santa Caterina, e sbarcarono in quella terra brasiliana che avevano sognato, non trovarono però né l'accoglienza sperata, né i mezzi che erano stati promessi. Avevano solo foresta da disboscare con le proprie mani e i pochi utensili faticosamente portati dall'Italia. Potevano contare soltanto su quella che era la loro abilità manuale, e in questo caso l'abilità di papà Visintainer fu particolarmente utile per costruire le prime case. Ebbero solo il conforto di qualche buona parola detta da un missionario di passaggio. Cominciarono dando forma ai propri ricordi, alla comune nostalgia, e sulle rive del rio Alfers alcuni fondarono la colonia più grande, chiamandola Nova Trento, e la prima cappella fu naturalmente dedicata al patrono di Trento, che è San Vigilio. Un gruppo di famiglie attorno ai Visintainer si spinse più addentro nella foresta e si costruì un villaggio chiamato Vigolo, con una cappellina dedicata anche questa a San Giorgio, che era il santo patrono del paese. Allo stesso modo vennero poi riprodotti nei dintorni i paesini di Mattarello, Besenello, Valsugana e tanti altri. Ogni tanto giungeva qualche missionario di passaggio per qualche buona parola. Finalmente, dopo 4 anni, a Nova Trento venne stabilita una residenza di missionari gesuiti italiani, e poté essere così garantito a tutte quelle persone, a tutti quei villaggi, un minimo di assistenza spirituale. Tra questi emigrati c'era per fortuna anche una maestra. Le costruirono una scuoletta e i bambini poterono avere almeno la prima istruzione elementare. Ma la nostra santa non riusciva proprio a imparare a leggere e a scrivere, pensate, al punto tale che dubitarono perfino che possedesse una normale intelligenza. Né si sapeva a questo punto come farle studiare, in quelle condizioni, il catechismo necessario per la prima comunione. La misero comunque ugualmente per la sua grandissima bontà. E qui, cari amici, cosa accadde tra lei e il suo Gesù nel loro primo incontro, non potremmo dirlo, ma le testimonianze che abbiamo sono concordi. La bambina corse dalla mamma e disse, guarda, le disse, so leggere. La madre, naturalmente incredula, visto che prima non sapeva farlo e dopo sì, disse, leggi allora. La bimba lesse, effettivamente ebbe quella grazia enorme di poter leggere. E qui la storia della piccola santa, divenuta improvvisamente la catechista poi degli altri bambini più piccoli, cominciò proprio da qui. Fatto sta che la nostra amabile, insieme a un'altra amica, sentiva nel cuore una chiamata forte a consacrarsi a Gesù. Quest'altra amica era Virginia, che poi sarà la cofondatrice della congregazione. Lavoravano entrambe al mulino, il primo costruito dai rispettivi genitori, e si chiedevano come fare per convincere le famiglie a lasciar loro seguire una vocazione che esse stesse non riuscivano però a formulare. Infatti non c'era una congregazione in mezzo a quell'area enorme del Brasile. Era quindi tutto da inventare e non c'era nemmeno un sacerdote fisso che poteva poi seguirle. Nel frattempo però ci fu un grandissimo dolore, una cosa drammatica che colpì la famiglia di Amabile. Infatti la mamma, Anna, che aveva 47 anni, morì. E dopo la morte di Anna, della mamma di Amabile, la vita diventò davvero triste in questa casa. Il marito, Napoleone, non riusciva a trovare pace e consolazione, non riusciva ad accettare la morte di sua moglie. L'intero peso della famiglia cadde allora su Amabile e su Ernesto, che erano i ragazzi più grandi. Ernesto dirigeva la fattoria, Amabile la casa. Era difficile comprendere il comportamento del papà. Un giorno Napoleone disse ad Amabile, «Dovrei prenderti cura tu, dei tuoi fratelli e sorelle, io me ne vado via». Sarebbe andato a Nova Trento perché là c'era bisogno del suo lavoro di muratore. Disse che sarebbe tornato a casa di frequente, ma che si sentiva impazzire. Sembra che si attribuisse la colpa della morte della moglie. Lei aveva lavorato troppo. Forse pensava questo non sarebbe capitato se fosse rimasta in Italia. E la sua mente era piena di rimpianti, di domande, alle quali nessuno poteva rispondere. Nervoso e irritabile, andò a lavorare in una Nuova Trento che si andava sviluppando. Questo padre tornava a casa ogni fine settimana, ma era sempre agitato, nervoso. Amabile si preoccupava e pregava per lui incessantemente. E proprio qui, cari amici, ha inizio un po' il nuovo percorso della nostra futura santa. Avvenne che una notte, dopo un giorno duro e lungo di lavoro, Amabile fece un sogno straordinario e nel sogno udì una bellissima musica. Guardò fuori della sua camera e vide un grande edificio bianco avvolto nella luce del sole. Questo edificio aveva due piani e una grande scalinata sul davanti. Fu attirata e salì la scalinata. Arrivata al secondo piano, entrò in una vasta sala dove c'erano due troni. Uno era libero. L'altro era occupato da una giovane donna vestita splendidamente, con una tunica di un bianco lucente e con una cintura blu. Era circondata da una montagna di fiori bianchissimi. Amabile credeva che la donna fosse la padrona di casa, che somigliava a un quadro della Madonna di Lourdes. Vicino alla signora c'era una ragazzina e sembrava che questa la accompagnasse. Proprio la ragazzina fece venire Amabile più vicina perché la signora aveva qualcosa di importante da dirle. La donna parlò, ma lei non riusciva a sentirla. Si inginocchiò allora a baciare i piedi della signora, ma era così abbagliante che non riusciva a fissarla. Amabile non capiva, così si voltò e scappò via, e proprio in quel momento si svegliò. La notte seguente si ripete lo stesso sogno. sembrava che la signora fosse piena di gioia, mentre Amabile si avvicinava al trono con maggior coraggio. La signora disse: «Desidero ardentemente che tu un giorno svolga il lavoro voluto dal mio amato figlio per la salvezza dei miei figli». Nel sogno rispose: «Come posso, signora? Io sono solo una povera ignorante, io so così poco del mondo e devo badare alla mia famiglia». Così si svegliò, pensando al sogno e turbata dalla richiesta. La terza notte, ancora lo stesso sogno. La signora le chiese: «Figlia mia, che cosa hai deciso?» «Io voglio obbedire, signora, ma io non sono nessuno, non ho nulla, non so né leggere né scrivere bene». Dopo aver detto questo, Amabile cominciò a piangere. La signora la confortò e con voce dolce le disse: «Figlia, non aver paura. Ti darò una persona che ti aiuterà a iniziare il lavoro che voglio». Immediatamente comparve un uomo alla destra della signora vestito con una veste da sacerdote. Sembrava che l'uomo fosse pieno di gioia al venire presso la signora. Questa, indicandolo, disse: «Ecco la persona che ti aiuterà, figlia mia. Egli ti indicherà la strada giusta, ti dirà come vivere e come lavorare». Amabile raccontò i suoi sogni a padre Servanzi, che era il missionario che seguiva in quel momento un po' più da vicino il villaggio. E secondo lui era chiaro che Maria Santissima voleva che Amabile continuasse il suo apostolato tra la gente. Il sogno era un'approvazione del lavoro che lei e Virginia, questa sua compagna, stavano facendo. Poco dopo però arrivò la triste notizia che padre Servanzi doveva essere trasferito in un'altra missione. Dopo 8 anni tra loro, doveva andare nella missione di Goias, centinaia di miglia lontano. Ed entrambe le ragazze erano piene di sconforto e di apprensione, infatti si chiedevano cosa sarebbe stato di loro e del loro lavoro. Padre Angelo Sabatini sostituì padre Servanzi. Era molto più anziano, di modi rigidi e severi, ma era simpatico ed aveva un cuore veramente grande, caritatevole. Amabile gli raccontò subito della famiglia più povera del villaggio, che viveva in una miseria sia fisica che morale. La mamma era paralizzata, il papà si ubriacava spesso e i bambini venivano trascurati. Padre Angelo prese a visitare la famiglia ogni giorno e con Amabile e Virginia portava cibo per i 4 bimbi. Aiutò perfino le ragazze a lavare i panni della famiglia e a pulire la casa. Ma anche questo nuovo sacerdote non restò molto a lungo nella missione di Nova Trento. Sia per l'età che per il duro lavoro, fu trasferito in un'altra missione. Al suo posto arrivò padre Marcello Rocchi. Era conosciuto padre Marcello come apostolo con una grande devozione alla Madonna di Lourdes. Era un predicatore conosciuto fra gli italiani in Brasile. Quando Amabile lo vide, restò stupita, perché questo era l'uomo del suo sogno. Era proprio l'uomo che la Madonna aveva indicato quando le aveva detto: «Questa è la persona che ti aiuterà». E padre Rocchi aveva grandi progetti per la parrocchia di Vigolo. Fondò la Società delle Figlie di Maria e ne stabilì Amabile e Virginia le prime direttrici, le prime responsabili. Con loro due come incaricate, la società si sviluppò. I giovani formarono dei cori, onorarono la Madonna con processioni, approfondirono soprattutto la loro fede. Si dedicarono a molte opere di carità per tutta la comunità cristiana. Molti a Vigolo e a Nova Trento notarono come padre Rocchi seguiva e aiutava in modo unico Amabile e Virginia. E temevano che forse queste due giovani sarebbero state portate via da loro e mandate magari in città per diventare suore, ma il loro destino, come vedremo, era quello che restassero lì, in mezzo alla loro gente ad aiutare. Intanto la devozione di padre Rocchi alla Beata Vergine di Lourdes gli fece progettare una grotta nella chiesa di Vigolo, di questo paesino, per metterci proprio una statua della Madonna di Lourdes. Ma mancavano i fondi e quindi il progetto fu sospeso. Quando Amabile sentì di questo desiderio, disse a Virginia: Coltiviamo un campo di mandioca, che è un tubero che viene poi frantumato, quindi diventa farina, molto usato anche oggi in Brasile. E quando ci sarà il raccolto, avremo denaro a sufficienza per comprare la statua della Madonna di Lourdes. Virginia disse: abbiamo un campo, ma chi ci aiuterà? Non possiamo fare tutto da sole. Amabile, come sempre, disse: non ti preoccupare, troveremo l'aiuto, non c'è nessun problema. Tutto fu sistemato. Padre Rocchi benedì il campo e pregarono molto per ottenere un raccolto abbondante. E tutti i giovani del paese aiutarono a zappare e a togliere le erbacce. E il Signore benedisse davvero quel campo di mandioca e arrivarono a un raccolto meraviglioso. Poi i giovani raccolsero le pietre per la costruzione di una grotta proprio nel presbiterio di San Giorgio e Padre Rocchi andò a Rio de Janeiro a comprare la statua della Madonna di Lourdes che fu posta nella grotta. La chiesa di San Giorgio divenne così un piccolo santuario. Nel frattempo, il papà della nostra santa era sempre addolorato per la morte e la scomparsa di Anna, della moglie. Ma molti compaesani gli consigliavano comunque di sposarsi di nuovo. Gli dicevano che non era giusto addossare su Amabile il ruolo di mamma e papà di famiglia. Nonostante amasse molto la sua famiglia e ritornasse di frequente tra loro, era di fatto un papà a tempo limitato. Qui conobbe una vedova, una certa Maria Zamboni, giovane senza figli, una donna virtuosa e gentile. Si sposò. Amabile fu contentissima. Secondo lei, Dio aveva risolto due problemi. I suoi fratelli e sorelle avevano ora una nuova mamma affettuosa e il papà sembrò finalmente ritrovare se stesso. Maria lo aiutò davvero a guarire questo suo cuore ferito e gli rese una famiglia completa. E anche il desiderio di Amabile di diventare una religiosa stava avvicinandosi alla realtà, a una sua attuazione. Dopo la decisione del matrimonio del suo papà, era ormai libera di soddisfare la richiesta che Maria Santissima le aveva fatto nel sogno. Probabilmente era il tempo opportuno. Le pregava continuamente e diceva nella preghiera: indicami, Signore, la via che devo seguire. Aveva 25 anni. Proprio in quei periodi, padre Rocchi conobbe una povera donna tirolese abbandonata. Era immigrata a Nova Trento e aveva allevato la sua famiglia. Dopo la morte del marito si era ammalata di cancro. Le sue figlie si erano tutte sposate e si trasferite lontano. Sola qui e incapace di badare a se stessa, non aveva più i mezzi per sostentarsi. Era sofferente e senza casa. Padre Rocchi decise di aiutare questa povera donna, ma non c'era nessuno che potesse prenderla in casa sua. Era ammalata, aveva un cancro, e oltre ad avere anche un brutto carattere, dicevano, aveva un odore che era nauseabondo, probabilmente proprio per la malattia che piano piano la stava prendendo tutta. Non essendo poi curata, possiamo immaginare. E qui alcuni del paese dissero, da una parte con una spontaneità interessata, dall'altra anche diciamo come riconoscimento, che toccava proprio ad Amabile e a Virginia prendersi cura dell'inferma. E entrambe colsero al volo l'occasione. Un missionario di passaggio ottenne per loro da un benefattore la proprietà di una baracca abbandonata di 6 metri per 4 con un metro di terreno intorno, e subito le ragazze vi si trasferirono assieme alla malata. Era nato così l'ospedaletto di San Vigilio, la prima pietra, diciamo, di quella che sarà la nuova, la bellissima congregazione che poi nascerà. Ma qui la comunità degli emigranti, legata da ferree tradizioni, non vedeva di buon occhio che due ragazze abitassero lontano dalle rispettive famiglie, quindi ad alcuni chilometri. I parenti anche si preoccupavano, i ben pensanti storcevano il naso, ci viene detto, e i maligni calunniavano, come sempre. E c'era chi addirittura li chiamava befane, streghe, indemoniate. Ricordiamoci che siamo verso la fine del 1800, quindi queste cose erano viste un po' come ragazze scansafatiche che cercavano di essere lontane dalla famiglia per combinare chissà quale birichinate, insomma, invece non era fatto così. E se all'esterno della baracca c'era ostilità, all'interno non era meglio, visto che anche la malata si rivelava scorbutica, piena di pretese, arrabbiata con Dio e con gli uomini. Eppure, cari amici, proprio nell'ospedaletto era stato acceso un grande ed enorme fuoco di carità che si sarebbe propagato da lì a poco tempo. è bello anche rileggere un attimo, anche per capire bene la situazione che stavano vivendo queste due ragazze, da sole praticamente, con l'appoggio di padre Rocchi, anche se padre Rocchi era un missionario, quindi non era sempre in quel luogo, ma andava per aree immense del Brasile per predicare. E quello che volevo leggervi, quello che Virginia, quindi la compagna di Amabile, scriverà in seguito, ma solo per obbedienza, descrivendo i primi inizi. E scrive così: la povertà del nostro locale era completa, non c'era letto, eccetto il pagliericcio per l'inferma trasportato con il carro. Non c'erano né sedie né tavola. Alcune persone pietose ci regalarono alcune scodelle e altre cose necessarie per servire l'ammalata. Ma noi due dove avremmo dormito? Sul pavimento, senza coperte, senza niente, e ciò per due intere settimane. Finalmente i nostri parenti ebbero pietà di noi. Vedendo che non tornavamo a casa, incominciarono a mandarci un po' di cibo, dicendoci però che se fossimo tornate alla nostra casa, almeno all'ora dei pasti, ci avrebbero preparato il necessario. Ma noi, scrive Virginia, non abbiamo accettato per non rischiare di infrangere a poco la nostra risoluzione. Quanto all'ammalata, i suoi parenti le mandavano il cibo, ma essendo poveri, questo non era sufficiente e per di più non era dato alle condizioni della povera infelice. Così fu necessario comprare alcune cose che riuscivamo a pagare con piccoli lavori che ci affidavano. Più tardi, questi lavori si ridussero fin quasi a niente. Dal momento che ci eravamo ritirate nella casetta, ci lasciarono nel più completo abbandono e non avendo vicino alla casetta nemmeno un piccolo cortile, non potevamo neppure uscire per prendere un po' d'aria. Tutto ciò per noi contava niente, anzi, era nostra gioia perché eravamo convinte che il Signore permettesse queste situazioni per arrivare allo scopo da noi desiderato. Perciò consideravamo il nostro miserabile tugurio come un vero paradiso. Il diavolo, scrive Virginia, vedendo che tante gravi difficoltà e tanta povertà non riuscivano ad abbatterci, anzi, per grazia di Dio erano motivo di consolazione, architettò altri piani per raggiungere il suo scopo. C'era per noi un indicibile tormento per l'odore indescrivibile che emanava dall'ammalata, e a questo si aggiunse, avendola noi quasi viziata, un suo modo di fare privo di ogni sentimento di gratitudine per la premura con cui era trattata. Anzi, si rivolgeva a noi sempre con ingiurie più gravi. Poverina, persona senza religione, abituata da molto a una vita licenziosa, adesso, presa dal castigo di Dio, si ribellava diabolicamente, ed era sufficiente che noi le rivolgessimo una buona parola, per richiamarla a migliori sentimenti, per farle vomitare contro ogni genere di bestemmie. Povera e infelice, parlava sempre come se non credesse in Dio e nella vita futura, ma ciò che maggiormente la faceva infuriare erano le parole sulla passione di Cristo, o quando noi leggevamo i punti di meditazione sulla passione. La pazienza e la mansuetudine, la sofferenza che il Signore ci donava e più di tutto le preghiere, erano offerte per ottenere il cambiamento di quel cuore ribelle a Dio. Chiedevamo che dopo tante perversità e bestemmie, Dio le aprisse le braccia e le concedesse, come alla Maddalena del Vangelo, il pentimento e la conversione. Un bel giorno, scrive Virginia, chiese di confessarsi. Cambiata questa creatura ribelle in un cuore mansueto, visse ancora 2 mesi e mezzo. Noi l'assistevamo continuamente perché ciò era necessario, e lei stessa, dopo la conversione, ci voleva sempre vicine, chiedendoci di pregare con lei e di parlarle della passione di Gesù. Intanto la gente ci aveva abbandonate per la paura di contrarre il male. Soltanto 2 buone vedove ci aiutavano per qualche notte. Noi eravamo quasi distrutte per i molti e continui sacrifici, e queste aumentarono negli ultimi 40 giorni precedenti la morte della nostra cara ammalata. Questi giorni e queste notti furono per noi una vera e rigorosa quaresima. Oltre l'assistenza che richiedeva, sempre voleva stringere le mani di Amabile, e ciò richiedeva che l'infermiera stesse continuamente in piedi. Un giorno, chiude Virginia, scrive, la buona Amabile, non potendo più resistere per la stanchezza, le chiese con tanta bontà: «Mi dai il permesso di sedermi un po' qui vicino a te?» L'ammalata rispose: «Ma non vedi in che condizioni sono?» amabile comprese che non voleva, e rimase in piedi fino alla morte, e quando la poverina morì, anche Amabile crollò, quasi a morire anche lei. E fu, cari amici, proprio in quella stanzetta maleodorante che nacque, come dicevamo, quasi dal nulla, la prima congregazione religiosa brasiliana, iniziata da queste due povere ragazze trentine. Intanto, quando la malata morì, tanti pensarono che lo strano esperimento, così lo vedevano, come strano esperimento, si fosse finalmente concluso. Erano molti a non considerare decoroso che due ragazze vivessero da sole, lontano dalle rispettive famiglie. Ma Amabile e Virginia si erano offerte al Signore, e l'ospedaletto restò aperto, pronto all'accoglienza di qualche altra malata, che non tardò a giungere. Nell'attesa, le due ragazze continuarono a vivere in quel loro piccolo convento improvvisato, dedicandosi alla preghiera e alla loro prima formazione spirituale, anche se dovettero subire quella, possiamo chiamarla, quella caratteristica malvagità di chi non può vedere il bene e la purezza senza essere afferrato dalla voglia diabolica di profanarli. Scrive Virginia, la nostra vita era quella di due eremite, sempre però soddisfatte e allegre nonostante la nostra povertà, e l'allegria non diminuiva neppure per le persecuzioni che ci venivano da persone senza religione, dissolute, persone che giravano attorno alla nostra piccola abitazione durante la notte, cantando canzoni oscene, battendo sulle nostre finestre e gettando contro la porta ogni sorta di immondizia. Questo non accadeva tutte le notti, ma abitualmente due volte in settimana per due anni consecutivi. Alla fine, comunque, cari amici, il bene trionfò e la gente comprese la carità e l'amore di queste due ragazze. Anzi, si abituò a vedersi attorno queste infermiere e ne era perfino fiera. Qualcuno già istintivamente le chiamava le nostre suorine, e a questo gruppetto si aggregò stabilmente una terza ragazza, Teresa Maule. Alla baracca primitiva venne aggiunto quindi un cortiletto coperto che serviva per raccogliere i bambini del catechismo e per insegnare alle ragazzine più grandi i mestieri di casa, soprattutto cucina e cucito. E i missionari, che passavano periodicamente e cambiavano frequentemente, cominciarono a guardare con interesse a quel gruppetto di giovani donne che, da sole, avevano inventato, possiamo dire, realizzato la propria consacrazione, pur senza avere alcun riconoscimento ecclesiale. Padre Rocchi cercava di aiutarle come poteva. Addirittura un suo confratello convinse le ragazze ad aprire anche un altro ospedaletto a Nova Trento, che era il centro, diciamo, più abitato. E per gestirli entrambi le ragazze dovevano ogni volta percorrere a piedi una dozzina di chilometri. Qui, aiutate da qualche benefattore, poterono aprire anche una nuova casetta che serviva da dispensario e una piccola cappella. Poi aggiunsero quello che serviva di più in quel momento, un piccolo orfanotrofio per i bimbi abbandonati, ed erano veramente tanti. E la gente chiamò istintivamente quei locali il conventigno. In breve, si presentarono altre ragazze attratte da quella strana forma di vita e già cinque novizie, possiamo chiamarle così, premevano per essere accolte. Proprio in quegli anni, intanto, Padre Rocchi fu trasferito in un'altra zona del Brasile. Dopo Padre Rocchi, la provvidenza inviò un altro missionario gesuita italiano che giunse a Nova Trento in maniera stabile però. Parliamo di Padre Rossi. Padre Rossi osservò attentamente, ci viene descritto, quel gruppetto di ragazze di campagna semianalfabete, col grembiule e il fazzoletto in testa, intraprendenti, e disse: un impiastro in più, cioè dice un problema in più. Ma era un uomo di Dio fino in fondo e non tardò a commuoversi per quella generosità innocente e profonda, a volte perfino un po' scriteriata, se si guardava a quelle che erano le pratiche spirituali, anche le penitenze, a cui le ragazze si assoggettavano nel tentativo di imitare quello che ricordavano delle vite dei santi, che avevano ascoltato nell'infanzia, oppure che leggevano nei testi spirituali che erano riuscite a procurarsi. La stessa reazione l'ebbe il vescovo diocesano quando finalmente giunse in visita pastorale a quella sperduta comunità. In un primo momento, prima di vederle, si propose di disfare quella piccola comunità nata senza permessi e senza regole. Poi invece, avendola vista, ne restò affascinato al punto da riconoscere ufficialmente il gruppo come congregazione religiosa, permettendo alle tre fondatrici di emettere appunto i voti religiosi e di aprire un vero noviziato. E fu così che Amabile divenne a 30 anni madre Paolina del cuore agonizzante di Gesù, superiora della congregazione delle piccole suore dell'Immacolata Concezione. Il nome derivava proprio dalla profonda devozione e dall'amore che Amabile aveva sempre coltivato verso la Santa Vergine apparsa a Lourdes. E qui ogni responsabilità di conduzione e di formazione della novizie era affidata a Suor Paolina, che da parte sua possedeva soltanto una grande fede, come vedremo soprattutto tra poco, per le grandi croci che dovrà portare, e un'umiltà altrettanto grande. A tutte le sue consorelle ella chiedeva ciò di cui dava costante esempio: preghiera, penitenza, lavoro. La preghiera, diceva, era necessaria per tenere acceso l'amore. La penitenza era necessaria per accettare con gioia i disagi di una vita tutta dedicata ai fratelli. Il lavoro era necessario per mantenere e per mantenersi e mantenere in vita le decine di orfani, di bambini, di malati, di diseredati che non avevano altro aiuto se non quella che il conventigno era in grado di offrire. Questo piccolo convento. E qui, sotto la guida di Padre Rossi, Paolina faceva e insegnava quello che sapeva fare. Cominciarono così col reimpiantare anche in quell'area del Brasile l'industria della seta. La ragazzina Amabile, che da piccola aveva lavorato nelle filande del Trentino, con l'aiuto di alcuni benefattori, comprò 3 telai e mandò le sue suore in una città vicina ad imparare l'arte della seta. Alla stagione dei bachi, tutte le suore a gruppetti si spargevano per la campagna a raccogliere le foglie di gelso e iniziavano l'intero ciclo di produzione della seta fino a confezionare cremici splendidi tessuti. Altre suore invece, insieme alle novizie e alle postulanti, lavoravano i campi a mezzadria, levata alle 3 del mattino, un giusto tempo dedicato alla preghiera e poi sui campi, portando con loro la colazione di polenta, frutta e verdura. Alla sera si faceva ritorno in noviziato per la cena, ma la cena c'era e si mangiava quello che gli orfani avevano eventualmente avanzato. Ma c'era tanta felicità, veramente era un cuore gonfio di gioia, dicono e ci testimoniano queste suore, nell'abitare nella casa di Dio, in questo piccolo convento. Le vocazioni oltretutto aumentavano, ma anche le opere di carità, opere tutte votate all'assistenza dei bambini abbandonati, dei malati e degli anziani. Arriviamo al 1903, quando madre Paolina venne eletta all'unanimità superiore generale a vita. Ma allora non sapeva, cari amici, che stava per iniziare il suo calvario. Tutto cominciò quando il confessore, padre Rossi, in quello stesso anno le chiese di dare uno sbocco più ampio alla congregazione. Lui era stato trasferito nella grande città di San Paolo, dove vedeva bisogni immensi in paragone a quelli dei villaggi della foresta. Nella collina dell'Ipiranga, lì vicino San Paolo, allora disseminata di baracche, c'erano anziani ex schiavi abbandonati e figli di schiavi di cui nessuno si prendeva cura, proprio in balia di loro stessi. Così Paolina si trasferì in quell'immensa città che contava allora 240.000 abitanti. Pensate che alla morte della madre gli abitanti erano 1.318.000. Ma alle suore contadine, a queste suore, venne dapprima offerta la gestione di un asilo di mendicità per ex schiavi. Poi una Santa Casa di Misericordia a Bragagna. Santa Casa di Misericordia era il nome che si usava a dare agli ospedali per i poveri. Poi dovettero obbedire al vescovo, che voleva anche un ospizio per ritardati di mente nella riunione di Perdizès. Poi altre case di misericordia in altre città vicine. Insomma, furono 6 anni di carità sfibrante, dopo i quali iniziarono 33 anni di passione e di silenzio, quando l'umile contadina trentina, la nostra Amabile, a cui tutti riconoscevano santità sì, ma non prestigio, dovette cedere il passo e diventare il cuore segreto, sofferente dobbiamo dire, ma anche gioioso, della sua congregazione, come vedremo tra un attimo. Il lavoro delle piccole suore aumentava continuamente e il vescovo richiese ancora altre suore per aprire un altro ospedale e un centro per malati terminali. Durante questo periodo, molte giovani di San Paolo e di Bragagna chiesero di entrare nella comunità dell'Immacolata Concezione. Quelle della zona di San Paolo fecero il loro postulato nella casa della Sacra Famiglia San Paolo e poi il noviziato a Nova Trento. Insomma, la crescita della congregazione era solida e a San Paolo era dovuta in buona parte anche all'aiuto e alla fiducia dell'arcivescovo, che ammirava queste suore sia per il loro lavoro entusiasta, ci mettevano cuore pieno, e anche per il loro spirito di carità cristiana. Ma questa stupenda crescita del lavoro di Madre Paolina metteva anche a dura prova le risorse della comunità. Lei non si intendeva di amministrazione. Era una lavoratrice infaticabile, ma era un po' come una bambina nel suo approccio ai molti compiti amministrativi che ovviamente c'erano nella crescente congregazione. Diceva di frequente: «Dio provvederà, amiamo Gesù e niente altro». Quando arrivò a San Paolo non aveva nulla, si fidava della preghiera e basta, diceva: «Questo è opera di Dio, egli ci indicherà la via». E proprio a un'altra suora, Suor Serafina, segretaria assistente di Madre Paolina, fu affidato il lavoro amministrativo della congregazione a San Paolo. Era una suora brillante, dotata, e la sua arguzia e intelligenza le davano la capacità di comunicare con tutti indistintamente. Madre Paolina aveva completa fiducia in Suor Serafina e le dava autorità e responsabilità. Sfortunatamente, come vedremo, questa suora era molto ambiziosa e sommamente egoista. Suor Serafina godeva, dicevamo, della stima di tutti, in modo particolare dei benefattori, erano persone molto ricche, e divenne particolarmente amica della ricca vedova di un industriale. Si chiamava questa donna Anna Brotero de Barros, era la più grande benefattrice forse della congregazione. E questa donna era affascinata da Suor Serafina per il suo modo di fare, insomma trascorreva molte ore ogni giorno in sua compagnia. Non era strano per la signora passare molto tempo con l'amministratrice, anche perché lei era presidente della società della Sacra Famiglia, quindi come maggior benefattrice della congregazione avevano fatto una fondazione proprio per incanalare queste offerte, e lei era la presidentessa. Ma la signora passava anche molte notti nel convento, a quei tempi era inaudito per una laica rimanere in convento così spesso di notte. E molte suore della comunità ritenevano inoltre che Suor Serafina fosse trascurata nell'osservanza delle regole, insomma la consideravano mondana, egoista e causa di divisioni. E nonostante la signora Anna fosse più che generosa con la congregazione, si notava che Suor Serafina ne approfittava personalmente, insomma le suore notavano che questo rapporto stava danneggiando anche la congregazione. Oltretutto, Suor Serafina aveva proposto a Madre Paolina, la madre, di rivedere addirittura le costituzioni della congregazione. Affermava che le costituzioni erano fuori moda e basate eccessivamente sulla regola monastica. Una volta addirittura disse alla madre che Padre Rossi, quindi il direttore, diciamo, spirituale di tutta la congregazione, Padre Rossi non era più interessato alle piccole suore e che avrebbe pensato di formare un nuovo gruppo. Insomma, in questo modo seminava discordia tra le suore a San Paolo. Quando parecchie di queste suore andarono da Madre Paolina a lamentarsi, la madre difese Suor Serafina e lodò il suo lavoro, anzi raccomandò a queste suore di essere caritatevoli nei suoi confronti. Ma le risposte della madre e anche di Padre Rossi a quelle che erano le incognite, insomma anche i dubbi delle suore, non soddisfece queste suore, insomma praticamente si recarono molte di loro direttamente dall'arcivescovo. l'arcivescovo Duarte. Furono naturalmente attente nello scagionare sia madre Paolina che padre Rossi, dicendo che loro due non conoscevano la doppiezza di questa suora. La madre, dicevano, era troppo occupata nel guidare le nuove case e nel lavoro delle suore, e padre Rossi era così spesso fuori città che era difficile per loro rendersi conto del problema. Sembrava quindi alla comunità che Suor Serafina stesse minando l'autorità, anche se ipocritamente si mostrava devota a madre Paolina. E qui l'arcivescovo restò turbato da questo rapporto e reagì in modo severissimo. La prima cosa che fece fu di parlare personalmente con la signora Brotero, facendo notare la sconvenienza del comportamento della suora e imponendole di smettere di incontrarsi o di parlare con lei. La signora Anna si accorse di trovarsi nel mezzo di una situazione veramente imbarazzante ed espresse il desiderio comunque di aiutare gli orfani e di continuare nel suo lavoro caritativo tra i bambini. Disse l'arcivescovo: «Tutto ciò che ho lo do a Gesù attraverso le piccole suore dell'Immacolata Concezione». E poiché era buona e generosa, l'arcivescovo pensò che lei stessa fosse vittima delle ambizioni di Suor Serafina. Le chiese quindi di continuare il suo meraviglioso lavoro per la comunità, ma evitare il contatto con quella suora. Ma qui, cari amici, dopo aver parlato con questa signora, l'arcivescovo prese anche delle tremende decisioni. Infatti chiamò immediatamente padre Rossi e gli ordinò che primo Suor Serafina doveva essere allontanata da San Paolo e le doveva essere tolta ogni autorità. Non doveva più occupare una posizione importante tra le piccole suore. Inoltre, la madre, madre Paolina, doveva essere rimossa dalla posizione di madre generale, non avrebbe occupato alcun ufficio nella congregazione che aveva fondato e avrebbe passato il resto della sua vita come semplice suora. Si sarebbe tenuta anzi un'elezione per la nomina della madre generale per gli altri uffici, e qui, dice l'arcivescovo, solo le suore a San Paolo avrebbero votato. Non si doveva dire nulla a quelle di Nova Trento per allontanare ogni paura dalle novizie e per non disturbare l'andamento delle vocazioni. Inoltre, madre Paolina doveva tornare a Nova Trento e non le doveva essere affidata nessuna responsabilità finanziaria. Ordinò anche che, sempre la madre, sarebbe stata chiamata madre fondatrice, ma non doveva più avere alcuna posizione di autorità nella congregazione, e che un capitolo generale doveva essere tenuto appena possibile per l'elezione di una nuova madre generale per discutere e progettare la revisione delle costituzioni oppure di farne di nuove. E qui possiamo immaginare, a padre Rossi si spezzò il cuore quando l'arcivescovo gli disse che cosa doveva fare. Insomma, era una croce terribile per madre Paolina. Come poteva dare lui questa notizia così brutta, insomma, questa croce così grande? Ma l'arcivescovo non avrebbe cambiato nulla della sua decisione. Tutto quello che aveva scritto doveva essere eseguito per il bene delle anime della congregazione, e a padre Rossi non restava altro che obbedire. Ci viene detto che il sacerdote scoppiò in lacrime. Sembrava ingiusto caricare, pensò, quella santa donna con un'altra croce così grande. Si prostrò in quei momenti davanti al Santissimo nell'Eucaristia e pregò per lunghe ore. Supplicò il Signore di dargli luce e di suggerirgli la risposta più idonea, più adeguata. Padre Rossi pensò che tutto sarebbe comunque passato e quindi si chiese perché sconvolgere la madre. Non le avrebbe detto nulla. Le avrebbe detto che le suore avevano bisogno di lei a Nova Trento per intensificare la vita spirituale delle novizie. Le sue figlie sentivano la sua mancanza e avevano bisogno di essere incoraggiate dalla sua energia e dal suo esempio. E quando chiese a madre Paolina di andare a Nova Trento, lei fu sorpresa dalla sua insistenza. Era convinta che madre Vincenza Teodora, che era la superiora di Nova Trento, una suora meravigliosa, stesse facendo un ottimo lavoro. E le suore di Nova Trento erano entusiaste di madre Vincenza, perché doveva tornare? C'era poi tanto lavoro da fare a San Paolo. Tuttavia padre Rossi insisteva e lei, per obbedienza, vi tornò. Le sue suore furono gioiose di questo ritorno, anche la gente era felice di avere ancora Amabile di nuovo in mezzo a loro. Anche se le suore rimaste a San Paolo, si sentivano un po' abbandonate, sole senza la presenza della madre. Padre Rossi però doveva comunque informare almeno madre Vincenza, quindi la superiora di Nova Trento, di questa situazione degli ordini dell'arcivescovo. Madre Vincenza ne fu sconcertata, e come poteva anche lei continuare a nascondere il tutto a madre Paolina? E qui, dopo 3 mesi a Nova Trento, la nostra santa, visto che tutto funzionava bene, voleva ritornare ovviamente a San Paolo. E l'11 agosto del 1909, tutte e due, madre Paolina e madre Vincenza, arrivate da Nova Trento, si recarono dall'arcivescovo. Ma questo interpretò la visita di madre Paolina come una sfida ai suoi ordini e la rimproverò aspramente, invece a madre Paolina non era stato detto nulla. Ripeté anzi i suoi comandi e le vietò di risiedere sia a San Paolo a questo punto che a Nova Trento. Le ordinò di andare a Bragagna nella Santa Casa e di lavorarvi come una semplice suora. E proprio alla presenza dell'arcivescovo, mentre egli la rimproverava, madre Paolina tenne il capo chino e rimase silenziosa. Madre Vincenza disse che, alla conclusione, madre Paolina alzò la testa e disse: «Eccellenza, la sua volontà sarà adempiuta. Chiedo solo che la congregazione dell'Immacolata Concezione rimanga intatta. Prego che le mie debolezze non causino danno alcuno alla congregazione. Qualunque cosa Vostra Eccellenza decida, io lo accetto. La sua parola è per me un comando». L'arcivescovo aveva deciso. Un giudizio era stato emesso e non sarebbe stato cambiato. Quel giorno iniziava per madre Paolina la via della croce. E fu proprio questa la svolta importante nella vita di Santa Paolina, proprio l'inizio della sua santificazione. Aveva 44 anni quando fu tolta dai suoi compiti di madre generale. Sarebbero passati, dicevamo, altri 33 anni prima che Gesù la chiamasse a casa in paradiso. E qui, secondo gli ordini dell'arcivescovo, si tenne il capitolo per fissare i vari uffici, innanzitutto quello della nuova madre generale della sua vicaria. A madre Paolina fu dato il titolo di veneranda madre fondatrice. Nel frattempo, suor Serafina fu trasferita alla Santa Casa di Misericordia a San Carlos, sempre vicino a San Paolo, ma lei stessa abbandonò l'abito religioso più tardi nel 1911. Ma tornando al 1909, le piccole suore erano già 52, divise in 6 case. E la nuova madre generale eletta durante il capitolo fu madre Vincenza Teodora, e quando madre Paolina si inginocchiò davanti a lei per baciarle la mano e per prometterle obbedienza, madre Vincenza l'alzò e la baciò con le lacrime agli occhi. Tutte comprendevano quale perdita era per la congregazione vederla andare in esilio. Il giorno dopo, senza perdere tempo, madre Paolina lasciò San Paolo per andare a Bragagna e iniziare là il suo lavoro. Senza credini o lamenti, questa santa eroina partì, sorridendo e piena di fiducia in Dio, che le aveva dato un'altra opportunità di servire. E anche qui molti che dicevano che era una donna ottusa, una sempliciona, anzi dissero che sicuramente avrebbe lasciato la congregazione dopo questa grande umiliazione, ebbero torto. Non solo non la lasciò, ma anzi, vedremo cosa farà. L'ospedale ospizio di San Vincenzo dei Paoli era la casa più umile della congregazione. I poveri pazienti erano i malati, gli abbandonati, gli handicappati, i ritardati di mente. Era in questo ambiente che Santa Paolina avrebbe lavorato e vissuto nei successivi 10 anni della sua vita. Gli ultimi 20 invece li farà a San Paolo. E qui, nella Santa Casa, cercava i lavori più umili, spaccava la legna, puliva i pavimenti, faticava nell'orto, badava ai malati, agli handicappati, agli anziani. Le suore ci dicono che lei sceglieva di prendersi cura dei casi più difficili. Durante questi 10 anni continuò a scrivere lettere di incoraggiamento alle suore, ma lettere che non hanno tracce di rimpianti. Scrisse anche qualche lettera a Padre Rossi dove diceva: «Godo buona salute e molta pace. C'è gioia nella povertà. Povertà se è offerta a Gesù con amore. Sono soddisfatta e felice nel Signore. La prego di non preoccuparsi per me». E il 20° anniversario della fondazione delle piccole suore fu ricordato il 12 luglio 1910. In una lettera alle suore della congregazione, la madre scrisse: «E con la gioia più sublime che vi dico che la nostra congregazione sta crescendo e che sta compiendo il lavoro di Gesù Cristo tra il suo popolo. Il nostro spirito di povertà religiosa deve sempre essere un'imitazione di Gesù Cristo». Nel frattempo, un grande dolore la colpisce ancora. Infatti, il suo caro papà, Napoleone, muore il 6 marzo 1911, all'età di 71 anni. 10 anni dopo, nel 1921, muore anche Padre Rossi. Possiamo immaginare il suo stato d'animo. Anche lei, durante gli anni, si aggrava. Infatti il suo male di sempre, il diabete cronico, si fa sentire. Nel 1938, aveva 72 anni, dovette essere ricoverata tra i suoi stessi malati perché un dito le era andato in cancrena. Era già nella casa di San Paolo. Le amputarono il dito, ma l'infezione si estese alla mano e al braccio e si dovette intervenire ancora chirurgicamente. A chi la compiangeva per la sua sventura rispondeva candidamente, non senza un sottile umorismo, che Dio prima si era preso il dito, poi tutto il braccio, e concludeva: ma io gli ho già dato tutto da tanto tempo, e lui sa di potermi chiedere tutto quello che vuole. Volontà di Dio, paradiso mio. Così negli ultimi 4 anni della sua vita, la nostra santa continuò il suo umile lavoro di confezione di rosari e di fiori artificiali, aiutandosi con la bocca. Stringeva lo stelo metallico tra le labbra e con la mano sinistra lo ricopriva di verde e applicava i petali e le foglie, oppure chiudeva con i denti le catenine del rosario. Ogni giorno passava ore intere in preghiera davanti al Santissimo. Recitava molti rosari, sgranando la corona che teneva al suo fianco, e la si poteva trovare soprattutto nella stanza da lavoro o nel suo posto speciale in cappella, alla destra, presso l'immagine della Madonna di Lourdes. E le piccole suore dell'Immacolata Concezione celebrarono anche il 50° anniversario della loro fondazione nel 1940 alla presenza della madre fondatrice. Avevano anzi ricevuto il decreto di lode dal Santo Padre il 19 maggio del 33, diventando una congregazione pontificia. Per l'occasione madre Paolina voleva una celebrazione semplice. Disse che esse erano una congregazione di povere per i poveri. E una santa messa solenne fu celebrata dal loro direttore, padre Giuseppe Gianella, che era stato designato dal superiore gesuita dopo la morte di padre Rossi. Madre Paolina aveva ormai 75 anni e decise di lasciare un testamento spirituale a queste sue amate suore della congregazione e scrisse così: «Mie carissime figlie, quest'anno, 1940, ci rallegriamo perché sono passati 50 anni da quando ho lasciato la casa di mio padre. Fui chiamata da Dio attraverso la sua Santissima Madre, Nostra Signora di Lourdes, ed io ho risposto con l'aiuto della grazia divina. Dio ha fatto il resto. Io ho fatto molto poco. Vi esorto e vi raccomando di essere umili, di avere fiducia in Dio e di fidarvi della nostra Madre Immacolata. Siate spose fedeli di Cristo. Andate avanti con fiducia e speranza nel suo amore e misericordia. La santa carità deve sempre essere la vostra suprema virtù, specialmente l'amore e la cura per i malati e gli anziani. Prendetevi cura dei bambini, educateli nella nostra santa fede cristiana, perché essi sono il futuro della nostra Chiesa cattolica. Amate tutti e praticate la carità ogni giorno nella mente, nel cuore e nello spirito. La mia missione è conclusa e io muoio contenta, sapendo che ho dato i poveri talenti che possiedo al mio Signore e mio tutto. Ho commesso molti errori, ma chiedo la sua misericordia, poiché talvolta lo zelo per la sua casa ci divora. Vi chiedo di ricordarmi nella preghiera, affinché Dio sia misericordioso nel giudicarmi. Dio benedica ciascuna di voi. Amate Gesù e solo Lui. Fate carità e Dio farà il resto». E dopo 2 mesi di grave malattia, sembrò invece che giungesse un sollievo alle sue sofferenze. Le suore erano contente perché forse la madre aveva superato la crisi e recuperava. Invece proprio allora i dottori cari amici scoprirono che aveva un tumore polmonare. Un anno prima della morte, la madre si aggravò a tal punto che non poteva né andare in cappella per la Santa Messa né per la Santa Comunione. Il 7 luglio dell'anno 1942 le sue condizioni peggiorarono ancora e il cappellano padre del Toro le diede l'assoluzione e la benedizione papale. Tutte le suore erano intorno al suo letto e pregavano intensamente. Il cappellano chiese loro di non affollarsi nella stanza, ma di andare in cappella a pregare per lei. La madre era ancora lucida e con voce molto debole disse: «Pregate il dolce cuore di Gesù e di Maria, lodate il cuore divino di Gesù perché ha ascoltato la mia voce. Gesù, prendi il mio cuore, tu sei la mia salvezza, il mio Redentore, il mio amore. Voglio fare la tua santa volontà, rendi forte la mia fede in quest'ora della mia morte». Dopo lo sforzo per parlare, sembrò che andasse in una specie di estasi e cominciò a dire: «Abbi pietà, ti amo, mio Gesù, Maria, madre mia, prendimi per mano e conducimi a casa». E alle 5 del mattino del 9 luglio 1942, madre Paolina entrò nel regno della vita eterna fra le braccia